Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Stava piantonando uno dei fermati, che uno di quelli raccolti per primi da quelle parti della scuola. Praticamente era una pozza di sangue. Quando 10 anni dopo, Genova torna in piazza per ricordare la voce che aveva quei giorni. No, voglio venire via, questo è morto. Genova torna nelle strade che avevano le vetrine devastate e i bancomat divelti, torna nelle piazze trasformate in barricate e nei viali divenuti campi di battaglia. Genova torna a Piazza Alimonda, dove 10 anni fa un ragazzo con in mano un estintore cadeva sotto il colpo della pistola di un poliziotto. 10 anni dopo quel G8, con le proteste, le zone rosse, i no global, i black bloc e poi ancora i manganelli, i pestaggi, le irruzioni e infine la notte della Diaz e il girone di Bolzaneto, 10 anni dopo, quelli che per tutti sono i fatti di Genova, la città torna in strada per costruire una memoria comune dopo la ferita condivisa, per chiedere ancora giustizia, perché associazioni come Amnesty International non debbano più scrivere che sono una macchia intollerabile nella storia dei diritti umani le impunità per le violazioni commesse durante il G8 dalle forze di polizia. Perché se ci furono devastazioni e violenze da fermare, con condannare e punire, commenta oggi a Storiacce Enrico Zucca, il magistrato di Genova che ha tenuto le fila dei tanti processi partiti dopo il G8, mai, dice, si possono mettere sullo stesso piano delle violenze compiute dai poliziotti. 10 anni dopo, Zucca, nel frattempo passato alla Procura Generale, riparte da qui, da quel giudizio di Amnesty, da quello della Corte di Strasburgo e dai processi che, dice, rischiano di finire tutti in un nulla di fatto. Qui dobbiamo rifarci a quel giudizio duro che Amnesty International ha dato dei fatti del G8 di Genova 2001, che passa alla storia come una delle più gravi violazioni dei diritti umani, così grave in una democrazia occidentale. Un manifestante ucciso, circa 500 tra dimostranti e agenti feriti, danni per milioni di euro alla città, ci sono stati più processi con sentenze a volte ribaltate. Molti prospettano la possibilità e il rischio che, complice anche la prescrizione, nessuno pagherà. È un rischio tremendamente concreto, perché per la maggior parte dei reati contestati nei vari processi ai rappresentanti delle forze dell'ordine la prescrizione si è già verificata e solo per una piccola parte ancora il termine non è maturato, ma siamo molto vicini. Lo Stato ha avuto paura di guardare dentro se stesso, non portando a termine quella richiesta di una commissione d'inchiesta che pur da più parti era stata sollecitata? Non spetta a me dire se la commissione d'inchiesta fosse opportuna, doverosa. È certo un fatto che non si può scaricare sul sistema giudiziario il completo accertamento dei fatti. Non si fa la storia nei tribunali. Genova è stata sconvolta, devastata da comportamenti criminali posti in essere da manifestanti violenti. Però è meno prevedibile, anzi è da evitare, che i rappresentanti dello Stato commettano atti criminali. Lo Stato non può combattere le azioni anche eversive con gli stessi metodi, ma deve farlo riaffermando i valori propri dello Stato democratico. Non ritengo che ci sia la consapevolezza ancora oggi della vastità del fenomeno. I fenomeni di abusi da parte delle forze dell'ordine sono stati purtroppo degli episodi diffusi. Quella diffusione di comportamenti abusivi si spiega soltanto in una contingente eccezionale come il G8 o non è magari il sintomo di un malessere che c'è ordinariamente ed è presente nelle forze dell'ordine? Questa è una domanda inquietante a cui bisogna dare una risposta. In una contingenza può ripetersi? Quella mancata commissione d'inchiesta avrebbe potuto rappresentare un anticorpo sulla commissione d'inchiesta. Ci sono anche le inchieste amministrative, ci sono le analisi che i corpi di polizia devono fare. Dov'è che secondo lei allora potrebbe esserci una forma di anticorpi? Non può che venire dall'interno dello stesso corpo di polizia, che deve trovare in sé le ragioni

magistrati non sono legate alle brillanti o meno operazioni che svolgono e quindi cioè a meriti insigni, ecco, i magistrati operano quotidianamente. Ma secondo lei quel tipo di ferita c'è anche all'interno del Tribunale di Genova? Io credo che la ferita ci sia fra le istituzioni e i cittadini, ma per curare la ferita occorre avere innanzitutto la coscienza della vastità di questa ferita. Temo che siamo abbastanza distanti dall'aver analizzato appunto appieno, aver fatto una diagnosi accurata. Ci sono stati degli scontri fra la polizia e alcuni manifestanti in occasione di uno sciopero generale a Genova qualche mese fa e gli organi di stampa con tanto di fotografie hanno riportato dell'uso irragionevole della forza dei mezzi di coazione da parte di rappresentanti delle forze dell'ordine. E alcune di queste persone, pur ferite anche gravemente, non si sono fatte medicare negli ospedali cittadini per paura e non denunciano questi abusi per paura. Se a 10 anni dal G8 la situazione è questa, dobbiamo avere un minimo di paura. Questa appunto secondo lei potrebbe essere anche l'eredità di Genova, ma secondo lei lei ha rivisto diciamo qualcosa che le ha ricordato Genova in fatti più recenti? Se ne è parlato nei disordini di Roma in occasione degli arresti e manifestazioni, a quanto riportato dagli organi di stampa. Ho rivisto situazioni che hanno comportato e che si sono rivelate a Genova nel 2001, cioè arresti di persone effettuati nel mucchio, di persone che non avevano compiuto attività criminali, come dire che non c'entravano nulla, con le accuse a loro rivolte, persone che sono state scarcerate, persone che sono state scagionate dalla documentazione filmata che i cittadini hanno presentato al giudice. In quel caso lì fortunatamente il giudice è stato subito adito e le persone hanno avuto diretto contatto subito con il giudice dopo il loro arresto. Sono situazioni che dovrebbero indurre davvero a riflessione. Ecco. Ma secondo lei invece anche sul fronte violenze dall'altra parte, cioè quelle dei manifestanti, anche lì c'è stato, cioè Genova è qualcosa che si può ripetere su quel tipo di intensità anche di violenze, di elementi diversi, non so, gli scontri sulla TAV oppure ancora prima quelli a cui faceva riferimento lei del movimento studentesco di Roma, avevano secondo lei dall'una e dall'altra parte degli elementi in nuce che richiamavano Genova? Guardi, purtroppo i segnali che ci sono e gli avvenimenti recenti anche su quel fronte non lasciano ben sperare e tuttavia c'è una sola via che è consentita, cioè contrastare i violenti non utilizzando le loro stesse armi. Questa è l'unica via, ecco. Per cui uno Stato democratico si impone ai suoi nemici. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, www.radio24.it nella sezione podcast, oppure ci trovate direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro audioblog. Ciao a tutti, a sabato!